Io avrei da dire molto, ma prima di tutto vorrei ringraziare a voi di aver presentato qui questo libro che, come hai detto giustamente, è anche un libro nato a Trento. La seconda cosa che mi congratulo proprio è di aver trovato due lettori così congeniali che uno non si può augurare di più. Ha detto Hebel su un libro di Stifter, che ognuno che legge questo libro si guadagna la corona della Polonia, perché si vede che è stato faticoso leggerlo. L'ha detto a proposito di Naxon, di Stifter, e io penso che voi due vi siete guadagnati due corone di Polonia, anche di più. Devo chiarire prima di tutto che da 20 anni, anche di più, vivo in Austria. Così non farsi l'equivoco della cittadinanza italiana, siccome non ho più esperienza di parlare spesso italiano, ho anche un po' di difficoltà di adesso poter rispondere come vorrei e come lo potrei fare in tedesco, ma mi limiterò proprio anche se sono limitata nelle mie possibilità di lingua di rispondere un po' alcuni punti, se questo c'è ancora tempo. Naturalmente. È giusto che bisogna leggerlo tutto il libro e questa è anche una cosa che io mi sono proposta di fare, come è giusto anche che la teoria è sempre nascosta nel linguaggio stesso e nella pratica del lavoro. Era questa una delle mie opzioni, di non avere prima una grande teoria un po' astratta e poi fare il lavoro concreto, ma di coinvolgere sempre la riflessione teorica nel lavoro pratico. E questo era proprio un punto di partenza che mi sembra molto, molto importante. Ha detto Marco che non si trova Mazzini nel libro e non si trova la solita interpretazione del Risorgimento. Anche questo è stato uno spunto molto importante. Di anche forse di trasferire anche un po' troppo, come lo vedo adesso, quell'aspetto nazionale che era sempre così predominante in questo periodo e per me è stato sempre più importante vedere oltre quella propaganda nazionale delle due nazioni e di vedere il rapporto sotto che funzionava anche come si vedeva sul livello dell'amministrazione a parte della propaganda nazionale. Dall'altra parte sì che il problema della nazionalità è anche importante perché la forbice, che è una delle conclusioni, se si vuole, del libro che si apre tra Stato e società, si apre qui in Italia in modo diverso che in altre parti della monarchia asturgica. E questo anche un fatto che si dovrebbe fare una storia comparata dell'amministrazione, perché l'approccio dal punto di vista Stato-società può essere lo stesso, mentre qui appunto viene l'argomento della nazionalità molto grave, come la situazione in Boemia, come la situazione delle Erblend e come appunto in Italia. E penso sì che sotto questo aspetto l'argomento nazionale risulta anche sottointesamente appunto quanto riguarda sempre la questione da parte degli austriaci chi possiamo prendere come delegato, commissario distrettuale, eccetera, e chi no. E dall'altro punto di vista l'argomento da parte degli italiani vogliamo collaborare con questo Stato tedesco o no? Il punto del declino da parte degli Oberschichten di diventare rappresentanti del proprio diritto e poi soltanto Staatsdiener, cioè amministratori di uno Stato, è un fascio della situazione. L'altro è appunto l'ascesa di un'altra parte della società, soprattutto sul livello più basso, per esempio commissari distrettuali che attraverso questo processo di statalizzazione possono anche diventare un nuovo ceto. Cioè, un ceto cambia e diventa non più vecchio patriziato, vecchia aristocrazia, Intanto l'altro ceto può diventare da un sarto, un contadino, un grande uomo nell'amministrazione dello Stato. Secondo me è uno dei deficit del libro, appunto il fatto a cui hai accennato molto discretamente, che non è trattato veramente a fondo sia la questione delle congregazioni, sia il problema dei comuni, che ambedue dovrebbero fare parte e che penso di poter fare in un altro libro, che la questione del comune ho trattato in un piccolo saggio, le congregazioni ha trattato Marco Merici, a cui appunto devo sottolineare un'altra volta, questo libro deve molto, perché senza il lavoro di Marco Merici anche questo libro non sarebbe stato quello che poi è venuto. Così che vedo proprio il deficit appunto di non aver studiato a fondo questi due argomenti che avrebbero e sarebbero stati necessari per arrondire il quadro. Anche a me sembra molto importante la differenza tra la Lombardia e il Veneto, e questo spero di poter studiare anche più a profondo, perché è molto essenziale secondo me il periodo precedente, cioè la lunga partecipazione della Lombardia all'Austria nel Settecento da una parte, e quel aderire del Veneto, vecchia repubblica, poi alla monarchia asburgica, che poi non era ancora monarchia asburgica. Bisogna rendersi conto che il Veneto faceva parte dell'Austria in un periodo quando non si chiamava Austria, perché era ancora il vecchio Sacro Romano Impero, e gli Asburgo ereditavano una tradizione della Repubblica Veneta del tutto diversa come non era la Lombardia allo stesso periodo. E quindi soprattutto il passato è molto decisivo per uno sviluppo che anch'io vedo molto differente tra le due parti del Lombardo Veneto. Tutta la questione della dissoluzione del sovrano, questo corrisponde anche con il problema del linguaggio e della denominazione del governatore. Anche in questo caso cambia il nome e cambia il concetto e cambia ciò che il governatore deve essere. Soprattutto c'è la coincidenza col governatore generale e col viceré. La dissoluzione, come tu l'hai chiamato, del sovrano, è anche una cosa che abbraccia la dissoluzione della rappresentanza del sovrano, e il rappresentante del sovrano è appunto il governatore, poi il viceré e poi il governatore generale. E qui è interessante vedere come quella rappresentanza del sovrano ha due aspetti. L'una è l'aspetto dello splendore, di fare, qui c'è una persona che rappresenta veramente il sovrano, che non c'è presente come essere umano o divino. Ma l'altra parte della rappresentanza, e questa è proprio anche il governatore generale, è la presenza forte militare. E questo mi sembra molto interessante, che il governatore generale è da una parte Radetzky, la forza militare, e dall'altra parte, dopo il 57, il rappresentante dello splendore monarchico, che è poi Ferdinando Massimiliano, e sempre sotto un nome. Che non ho fatto influire gli studi precedenti è un giusto argomento, e soprattutto la storia dei Kemmerer, che ho studiato, mi ricordo, è un foro, come si dice, giustamente proposto, ma questo libro era una cosa proprio a sé stante, e come approccio anche dal punto di vista di cosa va ricercato qui era soprattutto lo Stato. E tutti questi nomi, per esempio, dei Kemmerer non ho ritrovati in nessuna funzione dello Stato. E appunto questo è anche un risultato, si poteva dire per esempio in tutti i camera, ma dove sono? Comunque questo è una cosa che non ho fatto. E hai pienamente ragione con l'argomento che la società era molto presente e che proprio i non delegati, questa è una cosa che mi è piaciuta molto a scrivere, tutti quelli che erano stati scelti come delegati che poi non sono diventati delegati, che io ho chiamato i non delegati, tutti questi non delegati appunto avevano tante importanti funzioni fuori dallo Stato. Ed è questo appunto per me un segno di questa forbice del dividersi appunto della società che è dall'altra parte dello Stato, un processo che in altre parti dell'impero funziona, cioè non si apre in questo modo. Questo è da dire a Marco e a lei. Signor Rugge, anche tante grazie per aver letto, anche senza l'approccio lombardo-veneto, tutto questo libro. Lei ha notato giustamente che il problema del linguaggio è molto importante, e questo mi rimpiace molto che adesso parlo qui un italiano così imperfetto. E la lingua è un punto molto importante anche nell'atto di scrivere, e penso che proprio ogni concetto che si usa anche scrivendo ha bisogno delle riflessioni se non se lo usa o no. Il fatto della rappresentanza è uno che mi preme molto, appunto perché penso che non è stato studiato così a fondo come si dovrebbe studiarlo, si studia soltanto livello del Parlamento, eccetera, appunto la rappresentanza dal basso, ma come Marco l'ha chiamato la dissoluzione del sovrano, questo è soprattutto un problema della rappresentanza dall'alto e la mancanza, cioè da parte degli austriaci che poveri cristi non sapevano neanche cosa fare come imperatori nel Lombardo-Veneto. Anche qui c'era una struttura diversa fondata nel Sacro Romano Impero e poi si trovavano di fronte a un regno Lombardo-Veneto che non aveva senso. Appunto dalla prima presentazione ho chiesto di farmi questo stemma che gli austriaci hanno inventato per questo regno, che era una cosa che non aveva senso sin dall'inizio e che poteva e voleva coinvolgere proprio il vecchio Visconti, stemma e la Repubblica di San Marco per congiungere vecchie tradizioni che ambedue non erano tradizioni austriache. E questo avevano proprio la difficoltà di rappresentarsi anche se stessi. E perciò anche Francesco Giuseppe non si è mai fatto incoronare perché non vedeva senso in questo. Il grande problema della dialettica tra Stato e società, non so se ho usato il termine modernizzazione, certamente non nel senso teorico di Bela e consorti, che è proprio ormai quasi uno studio della storia della modernizzazione, ma soprattutto nel senso che lo Stato stesso si vedeva sempre come, penso, motore innovatrice, innovatorio che vuole anche promuovere e che vuole modernizzare per conto dell'amministrazione. Ed è giusto anche che da una parte, questo è il punto più interessante anche per me, che da una parte il modello di amministrazione astratta funziona e dall'altra parte c'è sempre il problema della politica, a che parte aderire, di che nazionalità, di che visione, per esempio, di se Milano e Venezia dovevano avere un Landtag o due Landtag e come rappresentare una nazionalità diversa nei confronti del centro, eccetera. E qui proprio Montecuculi e Hartig sono i due esempi più importanti perché loro avevano delle visioni precise di come si poteva farlo. E la contraddizione sta nel fatto che Montecuccoli, da una parte, era molto filo italiano e voleva rendere conto agli interessi degli italiani, ma dall'altra parte era molto più tradizionale, perché ciò significava rendere conto degli interessi dei vecchi ceti. Cioè Montecuccoli, filo italiano, tradizionale, vecchi ceti. Dall'altra parte Hardik, centralizzante, moderno, che pensa che gli italiani non devono avere una dieta per conto loro, ma soltanto una piccola rappresentanza a Vienna, e l'importante era lo Stato centrale. E ambe due potevano dire queste cose soltanto in un piccolo periodo, quando loro avevano le piene possibilità di agire anche. Tutti gli altri rappresentanti non avevano la possibilità di sviluppare queste idee, perché erano soltanto, come l'hai chiamato tu, ausführende organe di un volere molto più alto. Soltanto questi due, in questo periodo del 48-49, avevano anche la possibilità di scelta e la possibilità di un'opzione politica. Gli altri, se avevano delle idee, li avevano senza poter fare niente, perché loro dovevano fare soltanto quello che stava scritto. Organi esecutivi, non organi politici. Il problema della città, per non essere troppo lunga, penso che qui io volevo dire soltanto due cose. Da una parte, la sede di un centro amministrativo sceglie sì e dà uno spunto iniziale sullo sviluppo anche sociale di questo territorio poi. Cioè se per esempio il commissariato distrettuale di Teolo viene istituito a Teolo, questo ha un significato sociale senza dubbio. Cioè la sede dell'amministrazione cresce una certa specie del territorio. Non significa che ciò è lo stesso come il dominio della città sul territorio. Quello che ho detto in quanto problema dominio della città sul territorio è da una parte quello che so dalla lettura della letteratura italiana, e dall'altra parte è il mio esempio di un patrizio vivente in città che ha dei possedimenti, che anche il suo in campagna, dove il commissario distrettuale non lo può aggrappare. Cioè se il commissario distrettuale, come rappresentante dello Stato, in campagna vuole decidere qualcosa, questo possedente, in verità situato in città, non è, come si può dire, cioè il commissario distrettuale non ha nessuna possibilità di durchzusetzen i suoi interessi statali nei confronti di questo possedente assente, sì. Cioè di farlo veramente un tatam dello Stato, perché non è qui. Di ridurre le condizioni di subito. Sì, e questo era... Sono subordinati, sono un tatam e non... Sì, e questo era l'esempio che per me faceva visibile questa dominanza e la posizione sempre molto importante ancora delle città. Eh sì, il linguaggio al quale lei ha ritornato lo posso anch'io soltanto sottolineare, mi è piaciuto molto vedere questa continuazione di nomi che proprio vengono proposti apposta, anche per esempio, forse posso chiudere con questo, era un grande problema la denominazione di questo regno, perché non si sapeva come denominarlo. Prima si voleva soltanto dire Lombardia, poi tutti erano convinti che i veneziani sarebbero molto offesi se non ci fosse anche il Veneto. E così soprattutto Quebec, uno dei più importanti all'inizio di questo periodo, era convinto che il nome Regno Lombardo-Veneto, e cioè anche l'esistenza di un regno con un re e un viceré, come nome e come concetto doveva essere una cosa che Schmeichel sono agitata, no? No, lusingare che poteva lusingare al vecchio, alla vecchia superbia degli italiani di essere qui adesso un regno romano veneto. E così il problema dei nomi era sempre molto presente, il problema del linguaggio era molto, molto presente anche in questi, tutti gli amministratori stessi. Grazie. Vedo c'è ancora del tempo se qualcuno vuole porre delle questioni o fare, non so, visto che, ecco, forse Angela Benedictis che... Io volevo fare una... non è finito, purtroppo, quindi è una domanda rivolta all'autrice perché mi ha interessato molto il discorso che è stato fatto da entrambi i presentatori relativo al suo approccio particolare alle fonti artistiche. Mi occupo anch'io per altri periodi diversi precedenti, non c'è questo problema, è un grosso problema di metodo ma anche di contenuto. Ovviamente io le vorrei chiedere se lei può sintetizzare ovviamente insomma la qualità di questo suo approccio alle fonti artistiche. La cosa che mi sembra la più importante è che una fonte dice in vari versi più cose, per esempio le tabelle di qualificazione che mi vengono adesso in mente non dicono soltanto se questo impiegato è stato lodevole, se era scusato o non scusato eccetera, ma dicono soprattutto molto sul modo di vedere le necessità di un impiegato, cioè questa altra, l'altra parte della fonte che dice non soltanto la sua informazione ma come fonte stessa informa su più versi che quanto non apparisce in quel momento. Poi mi sembrava molto importante riflettere sempre il mio modo di usare questa fonte, cioè di riflettere anche sempre sulla domanda che io porgo alla fonte e di vedere poi le diverse risposte che mi può dare se devo curare la domanda. Dall'altro, questo è un altro punto, per esempio il 48 era sempre visto dai contemporanei come una rottura e come una cesura, si dice in tedesco. Invece le fonti danno come risultato che nell'apparato burocratico non è cambiato niente. Così ho un risultato venendo dalle fonti che mi dice il contrario di quello che i contemporanei attraverso altre fonti mi dicono continuamente. E così la cosa affascinante delle fonti è che allo stesso momento dicono una cosa e dicono il contrario. È soltanto il mio modo di usarle. Per esempio per me non è risultato chiaro da questo se 48 era veramente una cifra decisiva, ma i contemporanei l'hanno vista così e perciò hanno scritto tanti, appunto tutti Bestandsaufnahme sulla compromessa. Di diversi impiegati sono nati appunto dalla paura del 48 e senza questa paura non avrei avuto la fonte. D'altra parte la stessa fonte mi indica che non cambia niente perché sono sempre le stesse persone. E questa cosa ho riflettato continuamente. Sono altri che hanno... Ma io non ho capito una cosa. Dottoressa Manca. Se ho capito bene prima, no? Quando parlava, sono in compagno, adesso non lo so, Fabio o Marco. Si dice, diceva che il 48 milanese era stato fatto dai notabili delle congregazioni, no? Degli aristocratici, che per questo motivo poi negli anni 50 si trovavano i borghesi, no? Cioè si trovano i funzionari, gli altri funzionari sono borghesi. Io da questo avevo capito quindi che c'erano state in qualche modo delle impurazioni, cioè che l'apparato amministrativo era stato poi portato dei funzionari che si erano impegnati direttamente in politica oppure insomma o meno direttamente. E adesso però insomma, che poi coincide anche con quella che era l'esperienza sul caso prussiano dell'Ottocento, dove negli anni 50, già nei primissimi anni 50, si comincia a procedere contro appunto i funzionari politici, nel senso però del termine insomma, della legge del 54, e insomma i funzionari e anche i giudici insomma, che si erano in qualche modo compromessi politicamente, si trova il modo attraverso la via disciplinare di comunque o di metterli a disposizione o di trasferirli da tutt'altra parte del regno e così via. Adesso rispetto a quello che lei diceva, che lei invece vedeva la continuità, non so se ho capito bene, insomma. Sì. Non riesco a... Posso dire una cosa io, perché tutto nasce da un equivoco rispetto alla situazione che ho fatto io. Io ho detto che, diversamente dal Veneto, in Lombardia negli anni 50 può accadere di trovare come pubblico funzionario, come delegato, come prefetto, un qualcuno che prima del 48 era membro della congregazione, cioè quindi membro dell'ordine rappresentativo cettuale, però di collocazione di nascita borghese. Perché? Perché essendo stato il 48 milanese un fenomeno in cui l'aristocrazia aveva avuto moltissime carte da giocare, dopo il 50 se l'Austria doveva trovare un diavolo con l'alta società, in Lombardia preferiva farlo con l'alta borghesia invece che con l'aristocrazia. Non è un discorso sulla continuità o sulla frattura del personale, cioè è un discorso che evidenzia lo scarto, quello che facevo io. Mentre invece. Lei notava la continuità invece. La continuità amministrativa che è un'altra sì, cosa. La continuità del apparato come personaggi. Perché anche se si erano compromessi nella rivoluzione, questo non era, come ha detto giustamente anche il signor Ruge, non era tanto grave, perché gli austriaci erano molto più interessati di avere funzionari che funzionavano e che erano intelligenti che non quelli che non si erano compromessi. Perché già da tutto era così complicato come apparato amministrativo, per esempio si doveva per arrivare da Venezia a Vienna si doveva andare prima la cosa di Roma. Questo per me è molto significativo dell'idea di amministrazione da parte degli austriaci. Si doveva mandare da Venezia a Verona ogni dispaccio e poi mandarlo da Verona a Vienna. Si faceva il triangolo. E perciò certi gruppi si erano benissimamente consci che ci voleva funzionari proprio funzionanti e così il 48 da questo punto di vista non era così decisivo come vuol. Altre richieste di chiarimento? Ringrazio di nuovo Guido Marzo Barnic. Al pomeriggio signor Ruggio per questa noi abbiamo questo per noi italiani è molto bello e interessante essere chiamato signore, perché nessuno si chiama mai signore, mentre noi tedeschi usate questo termine, noi siamo molto dietro, cioè a me non c'è il signor Schiesi. Grazie.